appartengo a una razza inferiore. Io la voglio ma non capisco la ribellione. La mia razza è quella del predone. Come i lupi sappiamo solo uccidere. E non siate moralisti, voi che ne avete solo per chiudere gli occhi sulle miserie che vi siete fatte. Nessuno arriva mai in cielo con gli occhi asciutti. Avviso ai non comunisti, tutto è comune, anche i vostri dei tristi. Noi l'abbiamo cercato nelle scienze da mercato, in farmaci a prezzo ribassato. Cercato in grosso nani di cuori, nei più sottili profumi, sotto tutti i climi. Fuggire con tutti i mezzi, solo per un momento, da questa inutile gabbia di fango. Siamo angeli esiliati che non riescono a muovere un passo. Dolore per maestro, conosce se stesso solo chi ha sofferto. La sola ragione è di chi sta zitto dietro, no cico, neanche per prenderlo slancio. C'è una sola verità, è dentro e sale, ma se qualcosa può andar male lo farà. Ma finalmente cazzo, dentro un quadro d'asfalto, se qualcosa può farlo andrà peggio. C'è una sola verità, è dentro e sale, ma se qualcosa può andar male lo farà. Ma finalmente cazzo, dentro un quadro d'asfalto, se qualcosa può farlo andrà peggio. La violenza del trono si chiama giustizia, la giustizia del popolo è sempre ira e violenza. Sono attimi che passano in fretta, ma questo non significa che abbiano meno importanza. È una danza, ma siamo da soli come Sting, cerchiamo di andare più in là come Janis. E invece il mondo è andato avanti come King, e noi precipitiamo verso il basso insieme a Skin. La gente in difesa, in definitiva il suicidio è solo autodifesa. La vita è un'ombra che cammina, siamo attori sulla scena. La storia è scritta da un pazzo, è piena di rabbia e schianto, ma non significa un cazzo. Siamo infelici e spaventati, codardi, affannati, delusi e imprigionati. Sentiamo i nostri giorni sprecati. La cosa triste è che non ci siamo sbagliati. Ho il dolore per maestro, conosce se stesso solo chi ha sofferto. La sola ragione è di chi sta zitto e indietro. No cico, neanche per prenderlo slancio. C'è una sola verità, è dentro e sale, ma se qualcosa può andar male lo farà. Ma finalmente cazzo, dentro un quadro d'asfalto, se qualcosa può farlo andrà peggio. C'è una sola verità, è dentro e sale, ma se qualcosa può andar male lo farà. Ma finalmente cazzo, dentro un quadro d'asfalto, se qualcosa può farlo andrà peggio. Sono perso e piangere lacrime non ha più senso. Sono quello che ha toccato il fondo ed ha continuato scavando. Cico, questo mondo è un labirinto come Cnosso. Filtro aria da una canna, è meglio che pippare più Ghana che Panama. Mentre ballo con samba allo Zanzibar, la vita è sadica, gode nel vederci in bilico su funi tese di canapa o con lo sguardo fisso traiati in bar e di radica. Siamo quasi arrivati agli applausi, foglie e fogli di frasi per ritrovarsi in crisi nei momenti decisivi. E in alto i cuori, o fai di tutto e vivi o fai di tutto e muori. Evadiamo in continuazione, la decisione adesso è di affrontare l'ultimo passo con furore. La mia religione è lo stoicismo, ho un unico sacramento che si chiama suicidio.